Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'homepage del Sole 24 Ore. Si chiama, come oramai sapete, Guardie o Ladri. Allora, nel passato voi ricorderete, cari radioascoltatori, che noi abbiamo affrontato più volte la dialettica, chiamiamola così con un eufemismo, che esiste tra i tassisti, quelli che noi a Roma amorevolmente chiamiamo tassinari, e i conducenti e i noleggiatori, coloro i quali hanno delle macchine a noleggio che esplicano ugualmente un servizio pubblico, ma in che qualche modo sono in concorrenza con i tassisti. Nel passato a Roma sono volate scintille, per non dire anche di peggio. In realtà la situazione è polemicamente dialettica, diciamolo così, in tutte le grandi città. Allora, nel passato abbiamo avuto ospite Francesco Artusa, che è presidente di Anitrav, in buona sostanza rappresenta gli autonoleggiatori, il quale è tornato allarmato a scriverci dicendo: la situazione non è come prima, come dire, polemica, dialettica, ma in ogni caso con un regime di civiltà, ma qui siamo arrivati alle gravi minacce, alle minacce gravissime, agli insulti, alle ronde, tutto quanto per mettere gli autonoleggiatori che vengono da fuori Roma e arrivano nella capitale in modo da non poter lavorare. Allora, noi per approfondire questo argomento, ovviamente, che abbiamo fatto? Abbiamo chiamato Francesco Artusa. Buongiorno Artusa. Buongiorno a lei, gli ascoltatori. Allora, visto che stiamo parlando di Roma, visto che stiamo parlando della capitale, con centinaia di migliaia di persone che si muovono ogni mese, milioni ogni anno, non potevamo non coinvolgere in questa polemica, che ci vede spettatori neutri, se è ben chiaro, Massimo Campagnolo, che è segretario nazionale di Federtaxi. Buongiorno Campagnolo. Buongiorno a lei. Allora, partiamo dall'accusa. Facciamo finta di essere in un'aula di tribunale. Artusa, a lei la parola. Quali sono queste gravi minacce che sono arrivate a voi autonoleggiatori che arrivate nella capitale per esplicare il vostro lavoro? Guardi, allora, intanto per cominciare, c'è stato adesso di recente, appena sospeso dal TAR, un'ordinanza dell'ENAC, appunto, che faceva distinzione fra chi lavorava come contratto di cooperativa e tutti gli NCC di Roma e non di Roma. Comunque ci ha pensato il TAR come al solito. E nel mentre c'erano le campagne fatte da rappresentanti dei tassisti, nel quale si diceva o ci pensano le determine, o ci pensa il sindaco, o ci pensa la legge, oppure ci pensiamo noi a fare organizzare blocchi e picchetti sulle corsie preferenziali negli aeroporti, porte nelle stazioni. Praticamente la legge non esiste, se la sono fatta da soli e se la applicano pure. In più, ad esempio, c'è un blog di Roma molto famoso, molto importante, e il suo gestore ha subito minacce di morte, lui e la sua famiglia, dove qualcuno gli ha indicato anche esattamente qual è il suo indirizzo di casa. Andiamo con calma, Artusa, perché la situazione mi pare veramente molto molto delicata. Allora, detto che minacce, insulti e quant'altro sono arrivate anche a chi vi parla, non so se in quel blog, qualche altro blog di tassisti, soltanto perché avevo osato parlare del lavoro dei tassisti e metterli a confronto con gli autonoleggiatori, riassumiamo per i radioascoltatori: i tassisti romani non vorrebbero, uso il condizionale perché poi dovremmo sentire ovviamente la voce dei tassisti romani e dei tassisti a livello nazionale, non vorrebbero gli autonoleggiatori che arrivano da fuori Roma, e per essere ancora più chiari hanno organizzato ronde, minacce, blocchi, insomma, caro Artusa, proprio non vi vogliono. No, esatto. Ma attenzione, precisiamo che quando si intende fuori Roma non è, come dicono sempre loro, Reggio Calabria eccetera, anche Fiumicino, Piano Romano, qualsiasi comune che sia fuori la capitale. Benissimo, allora qui siamo in presenza di un fatto abbastanza chiaro. Caro Campagnolo, che cosa ha da rispondere a quello che Artusa ha fatto presente? Ma guardi, se io dovessi andare in radio nazionale ogni volta che qualcuno mi ha minacciato, direi che passerei più il tempo in radio che a fare il mio lavoro. Beh, questo non è un bel segnale, questo non è un bel segnale comunque, Campagnolo, voglio dire. No, ma per dirle che la nostra vita, specialmente, mi dispiace che anche un rappresentante nazionale dei noleggiatori, che io ritengo dalla nostra parte, in che senso? Nel senso che qui c'è un po' di confusione, che si crea sempre ad hoc questa confusione. La legge è chiarissima, le due attività, noleggio e tassista, sono complementari. Cosa significa? Significa che il noleggio ha le sue mansioni sul servizio pubblico e lavora col tassametro, il noleggiatore lavora nella rimessa e può fare i prezzi come vuole lui, a telefonata, quello che vuole lui. Quindi i lavori sono ben delineati. Cosa succede? Succede che c'è stata una distorsione della legge, perché la legge prevede chiaramente che l'utente deve essere prelevato, cioè il servizio per andare a prelevare l'utente da parte del noleggiatore deve cominciare dalla rimessa. Invece adesso succede che il servizio inizia da dove è l'utilizzatore del noleggio. Quindi, cioè, diciamolo in maniera chiara, vuol dire che un autonoleggiatore si fa trovare magari presso una stazione o presso un aeroporto per poter prendere o portare. Bravissimo. Ecco. Questo crea un disagio, perché non abbiamo più avendo davanti gli hotel e gli alberghi decine di noleggiatori, perché ricordiamo che il problema nasce da quando qualcuno si è inventato il lavoro di dare noleggio, autorizzazioni. Ci sono alcuni comuni che, pur di dar lavoro, ha cominciato a dare autorizzazione a tutti, tanto vanno a lavorare da un'altra parte. Allora, Campagnolo, vorrei fermarla un attimo per riassumere con lei. In realtà l'ho già fatto. Abbiamo chiarito che, a suo giudizio, la legge è chiarissima. Quindi dice, cari noleggiatori, non fate concorrenza sleale, per piacere, perché la legge è chiara. Però le voglio chiedere questo, Campagnolo. Le pare normale, se è vero che ci sono stati, che si arriva ad una giustizia fai da te, vale a dire da Sissi Romani, si organizzano e impediscono con la forza, con blocchi ai quali partecipano anche delegati sindacali o con minacce di morte, perché c'è minaccia e minaccia, Campagnolo. Un conto è dire ti spacco la faccia, un conto è da dire dove abito per farmi magari spaccare davvero la faccia. Quindi facciamo attenzione anche al tipo di minaccia. Comunque, le pare normale che i tassisti romani si autogestiscono per una giustizia fai da te? Naturalmente io sono fermamente contrario a fai da te, nel senso che abbiamo una giustizia che deve seguire il suo corso. Logicamente si è arrivati a un punto tale che la crisi internazionale più questo assieme di noleggiatori che si trovano qui, si parla di capitale, ma io, lei sa benissimo che io sono di Milano e quindi i problemi di Roma vengono amplificati in tutta Italia. Sì, ma Milano è un po' meno sentita. Ecco, è un po' meno sentita, ma non è che non esiste questo problema, Campagnolo. No, esiste. Appunto. Taxi di Venezia, taxi del Trentino che sono fermi nel principale hotel di Milano, quindi per carità esiste anche qua. Ecco, ma è vero, Campagnolo, che voi siete una lobby potentissima, siete in grado di far cadere persino una giunta o far eleggere anche un sindaco, per esempio Artusa, ma non solo, io da romano seguo le cronache romane, voglio dire, i tassisti sono sempre stati fortissimi nella capitale. È vero che Alemanno chiude un occhio perché in realtà i tassisti lo hanno votato in massa? Guardi, siamo così potenti che non riusciamo a fare un foglio di via a metterlo nella 2192 perché i noleggiatori sono riusciti a bloccarci. Abbiamo chiesto la modifica di legge, non è nient'altro che l'attuazione della legge attuale, entrando nel particolare, e questo non è ancora avvenuto. Pensi quanto siamo potenti. Bene, Campagnolo, allora abbiamo sentito e la ringrazio la sua opinione e passiamo nuovamente ad Artusa. Allora, Artusa, i tassisti non sono così potenti, allora forse lo siete voi che oltretutto agite anche in maniera sleale, perché andate a rubare i clienti fin sotto gli alberghi. Questa è stata una cosa chiaramente detta da Campagnolo e non è la prima volta che la si dice, ovviamente. Artusa, prego, a lei la replica. Allora, l'adescamento è già vietato da questa legge, si tratta solo di fare controlli. A tal proposito abbiamo lottato una settimana adesso alla Camera della Moda per far intervenire i vigili, a sanzionare tutti questi abusivi, persone irregolari, senza permesso, senza licenza, e nessuna volante si è presentata a fare queste sanzioni. A proposito della confusione, mi lasci dire che Campagnolo probabilmente collabora a creare questa confusione, visto che è da una parte presidente di un consorzio che opera come NCC all'aeroporto e dall'altra difende anche i servizi di interessi dei tassisti. Attenzione, Campagnolo, c'è un conflitto di interessi. Alla fine, mi lasci concludere, perché è vero che la legge è chiarissima. Ripeto, scusatemi, posso parlare? Prego, Campagnolo, un conflitto di interessi, lei ha due cappelli. No, non c'è nessun cappello. Allora, senta, il mio consorzio, che non è Federtaxi Cile, sono rappresentante nazionale di Federtaxi Cile per i tassisti, punto. Dopodiché succede che nel mio consorzio, come ho detto prima, convivono tranquillamente tassisti e noleggiatori, perché ognuno ha il suo lavoro differente. Bene, questa è la realtà che viviamo noi, per quello che dico che a livello nazionale deve poter funzionare così anche in relazione, perché è così. Bene, allora cari radioascoltatori, non è che esauriamo qui il dibattito, ovviamente abbiamo riacceso i riflettori su questa disputa e secondo me è destinata a continuare, ahimè. Ed è per questo che io dico, cari tassisti, scrivete ad un abuso al giorno @radio24.it. Se volete insultarmi o infangarmi, avete a disposizione il mio blog sull'homepage del Sole 24 Ore, si chiama Guardi o Ladri, e quindi ci risentiremo, caro Campagnolo e caro Artusa. Non è finito qui ovviamente il nostro dialogo. Dico grazie in regia a Carmelo Lauricella, in studio ad Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.